La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato alla storia antica oggi, un progetto promosso dalle biblioteche di Roma per intraprendere un viaggio nella storia antica, con lo sguardo rivolto al mondo d'oggi. Ospite ai nostri microfoni Maria Pia Mazziotti, curatrice del progetto. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Un viaggio nella storia antica con lo sguardo rivolto al mondo d'oggi. È l'obiettivo che si propone il progetto speciale curato dalle biblioteche di Roma dal titolo La storia antica oggi. Progetto che nasce da una riflessione di Lidia Storoni Mazzolani, storica del mondo antico, e che per la prima volta punta a realizzare i suoi eventi, come dire, all'esterno delle biblioteche e dunque in luoghi evocativi e affascinanti della Roma antica, da ottobre a dicembre del 2011. Tra questi il Campidoglio, il Museo Nazionale Romano, il Museo dei Fori Imperiali, i Mercati di Traiano, il Palatino. Si tratta, in poche parole, di un viaggio itinerante per approfondire il pensiero e la vita di donne e uomini dell'antichità greco-romana. Personaggi, si legge nella presentazione del progetto, che ebbero un valore particolare e che nella loro problematica ed esemplare esistenza si impegnarono a ripensare l'umano. E quindi tra questi c'è la filosofa greca Aspasia di Mileto, c'è Assiotea di Fliunte, che sfidò Platone e l'Accademia, ma anche l'imperatore romano Adriano, che fu uomo di cultura e di pace, e l'imperatore Marco Aurelio, importante filosofo stoico, oltre che sovrano, capace e assennato, per finire con l'imperatrice romana Galla Placidia, protagonista del passaggio dal mondo antico al Medioevo. Lo scorso 29 settembre alla Casa Internazionale delle Donne a Roma si è svolta la prima delle molteplici iniziative in cui si articola il progetto, con un dibattito sul concetto di bellezza e purezza in Ipazia di Alessandria, un esempio di tenacia che arriva fino a noi. Tra i personaggi che nell'antichità si impegnarono a conoscere e a interpretare lo spirito e il pensiero della loro epoca, con inevitabili conseguenze nello sviluppo della civiltà, spicca Ipazia di Alessandria, autorevole scienziata e filosofa che pagò con la vita la sua devozione al sapere e alla sua diffusione. Filosofa e politica di prestigio, fu una dei più importanti protagonisti di un movimento di rinascita politica e culturale che si ispirava ai valori della tradizione classica e si contrapponeva alla politica della Chiesa gerarchica degli episcopi. Dai contemporanei fu riconosciuta come la terza grande caposcuola del platonismo dopo Platone e Plotino. Fu l'ultima grande astronoma dell'antica scuola matematica di Alessandria. Il suo nucleo intellettuale, attraverso 11 secoli di cultura bizantina, arriva fino all'umanesimo e all'illuminismo. Morì barbaramente assassinata nelle strade della sua città natale da un gruppo di fanatici cristiani su istigazione del vescovo Cirillo nel marzo del 415 d.C. Alla figura di Ipazia di Alessandria è dedicato, come sappiamo, il film Agorà di Alejandro Amenábar del 2010. Lasciamo da parte per un momento ogni idea preconcetta. Quale forma esso ci mostrerebbe? Quale forma? Una volta hai detto che il problema sta nell'inconsistenza del sole. Sì, sì, l'ho detto, è vero, dillo con parole tue. Il sole deve stare al centro poiché noi gli giriamo intorno e allo stesso tempo in un'altra posizione, visto che la nostra distanza da lui varia. Sì, esatto. Ma come può occupare due posizioni in una volta? Come può occupare due posizioni in una volta? Come può occupare due posizioni in una volta? Beh, che cosa accadrebbe se tutte e due le posizioni fossero i due centri di un medesimo cerchio? Ma non è possibile, padrone. No, aspetta, cosa sappiamo del cerchio? Che il centro del cerchio è sempre alla stessa distanza da ogni punto del perimetro. Esatto. Esatto, e che succede se divido quel centro in due? Ma ciò che mantengo costante è la somma delle loro distanze dal perimetro. Ora pensa se applichiamo questo al movimento della Terra. Pensi che otterremo un'ellisse con il sole ad uno dei suoi fuochi. Abbiamo in linea Maria Pia Mazziotti, che è curatrice del progetto. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Allora, dottoressa Mazziotti, ci racconti un po' di questa importante e interessante iniziativa, come nasce e quali sono gli obiettivi prevalenti? Questa iniziativa nasce con l'obiettivo di principalmente di far emergere da un passato che, come dice Carla Lonzi, una femminista e artista, un passato che per millenni, diciamo, ha occultato la differenza della donna. Noi, partendo anche da questo presupposto, abbiamo cercato di far emergere figure cancellate appunto dalla storia, e abbiamo chiamato in questo nostro progetto sulla storia antica oggi figure come Aspasia di Mileto e Astiotea di Filiunte, che fu cacciata da Platone, dall'Accademia di Platone, perché era una donna, e questa giovane si traveste da uomo per poter accedere al pensiero, per poter pensare con gli altri. E Nike Kutraku, che interverrà, la vice ambasciatrice di Grecia, che interverrà nel progetto a più eventi, lei ha detto che tutte le ragazze dell'epoca si travestivano da uomini, persino per andare a partecipare ai giochi olimpici. Poi invece, quando scoprirono che le donne appunto si travestivano, decisero che dovevano, tutti i giocatori devono essere nudi. Loro però insistettero e secondo me insistettero al punto che, insomma, arriviamo a oggi. Sì. E oggi vediamo che invece le donne hanno una visibilità, oggi c'è presente un'eccellenza femminile proprio nel nostro tempo che parla, e noi la facciamo vivere dentro il nostro progetto, parlando di Assiotea, di Aspasia di Mileto, che appunto Aspasia di Mileto sembra che sia la figura di Ottima, la figura di Socrate, la Diotime di Socrate, insegnante appunto dell'arte erotica. E poi c'è i pazzi d'Alessandria. Ecco, a proposito di Ipazia, è una figura affascinante. Il grande pubblico ne è venuto a conoscenza attraverso il film Agorà, e voi appunto ci avete dedicato una serata di approfondimento. In che misura la figura di Ipazia ha oggi una sua attualità? Noi diciamo, infatti, come abbiamo intitolato il progetto e l'evento del 29, lo abbiamo intitolato il concetto di purezza in Ipazia d'Alessandria, però poi abbiamo continuato, un esempio di tenacia che arriva fino a noi, nel senso, noi ci sentiamo tante giovani pazze, sì, noi del nostro tempo, e persino l'ambasciatrice di Egitto presso la Santa Sede, sua eccellenza Lamia Mekmah, lei, quando è venuta appunto all'iniziativa della Casa Internazionale delle Donne il 29, lei stessa disse che questa tenacia la sentiva addirittura nelle donne che combattevano sulle sponde del Mediterraneo nella primavera araba. Lei disse proprio così, lei disse ragazzine, giovani donne, la prima donna che è morta in questi scontri, in questa primavera araba, è proprio una donna a piazza, una giovane donna di 26 anni, una studentessa di piazza Tahrir, appunto al Cairo. E lei appunto ha continuato a dire che in queste giovani donne lei vede tante pazze ad Alessandria. Ipazia, che poi non era, dice Nike Kutraku, ha continuato, non era una combattente, dice, non dobbiamo confonderla, non era una combattente, era una donna che voleva far vivere il pensiero, voleva che non venisse occultato, certo, la possibilità di pensare. Ecco, l'incontro conclusivo di questa vostra iniziativa si terrà il 14 dicembre in Campidoglio, nella sala della Protomoteca. Per l'occasione sarà esposta una riproduzione dell'affresco La scuola di Atene di Raffaello Sanzio. Perché questa scelta? Questa scelta perché questa giornata è l'ultima giornata, e poiché il progetto è principalmente è dedicato alle nuove generazioni, quindi abbiamo chiamato 8 scuole, 8 licei a partecipare e a lavorare con noi in questi mesi, e l'impegno più radicale è rivolto a loro, e proprio per questo noi nell'ultimo incontro, davanti a un quadro che rappresenta tutti i filosofi di tutte le epoche, abbiamo chiesto agli studenti di interpretare i testi che hanno scelto, i testi presenti nel progetto. E loro, la maggior parte, ha scelto i pazzi ad Alessandria, certo, forse perché appunto è il personaggio di questo momento, sì, e lo interpreteranno, lo leggeranno, si travestiranno, addirittura ci sono le ragazze della Casa Famiglia Laura Bicuna che si travestiranno, A Cirillo, per esempio, non so perché gli metteranno le unghie lunghe. Noi gli abbiamo detto: ma come? Perché le unghie lunghe? Perché loro hanno detto è un malvagio. Ma non è vero, c'è un libro, e io qui lo voglio dire, di Luisa Muraro, sui pazzi ad Alessandria, edito Sabina Editorial, scritto in tre lingue, spagnolo, inglese e italiano, dove Luisa Muraro mette in scena il perdono, fa chiedere perdono a Cirillo, a un'anziana che gli dice: perché tu che sei un uomo di chiesa hai ucciso un innocente. E quell'uomo a cui lei si rivolge, che è il vescovo Cirillo, appunto, è tutto fatto a immagini questo libro, è molto bello, è per gli adolescenti. E Luisa Muraro dice: gli adolescenti non devono avere un'immagine del cristianesimo. Lei dice: il film forse era troppo violento per quanto riguardava questa cosa dei monaci fanatici, cioè, perché il cristianesimo è stato un movimento di grande liberazione, un Cristo morto in croce, martiri che sono stati uccisi, e quindi dice bisogna dare anche il senso di questa forza del cristianesimo. E lei, mettendo questo Cirillo che dice prega per me madre, guardando l'anziana, mette in scena quello che non si percepisce nella storia di Ipazia, però, dice Luisa Muraro, può essere accaduta una cosa del genere. Poi dice bisogna mettere nella testa degli adolescenti che questa cosa è possibile. Dottoressa Mazziotti, abbiamo finito il nostro tempo. Bene. Grazie molto per la sua partecipazione. Grazie a voi.